Ora è 12:51 di lunedì 18 novembre 2024, ultime battute ai giardini della Biennale, dove sì, sicuramente il tema dei conflitti, delle forzature culturali come conseguenza del colonialismo anche economico, ha trovato varie chiavi di interpretazione. Per esempio, l'ultima a cui ho assistito molto efficace, Padiglione Serbo, parla proprio di colonialismo economico con l'invasione dei grandi brand e stili di vita occidentali in un paese che aveva tutta una sua profonda identità, a prescindere naturalmente dall'appartenenza a una certa ideologia. Molto interessante anche nel Padiglione Polacco l'uso proprio delle leve emotive per avvicinarci alla guerra in Ucraina, in realtà dal punto di vista dei rifugiati, in modo molto molto più efficace rispetto a quanto accade semplicemente provando a informarsi sui media ufficiali. Ad alcune persone è stato chiesto di riprodurre lo shock emotivo dei suoni della guerra, i suoni delle bombe, i suoni degli allarmi. L'ho trovato straordinario, perché ti cala davvero in una realtà che a quel punto diventa tua, senza una intermediazione giornalistica. Interessante anche il padiglione egiziano. Adesso noi forse dovremmo togliere la tara del pregiudizio nei confronti comunque di un regime che non è democratico e che produce questa narrazione anticolonialista, con un focus sulle guerre coloniali a cavallo dell'Ottocento e del Novecento. Anche quella mi è parsa un'installazione molto efficace. Per fare un bilancio bisognerà sedimentare un po' questi pensieri. Ci proverò con una specie di registrazione conclusiva sul treno, anche dopo aver parlato con mia figlia, che così abbiamo anche uno sguardo di un'altra generazione.